Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Anche per il prossimo Capodanno, 31 dicembre 2017, la Caritas di Padova propone una proposta diversa insieme alla Pastorale dei Giovani. È il quinto anno appunto in cui viene lanciata questa idea, una giornata di festa il 31 dicembre pensata per chi vuol vivere un'esperienza aperta, accogliente, divertente e un Capodanno alternativo. La proposta si rivolge ai giovani dai 18 ai 35 anni. Si inizierà al mattino dalle 9 del giorno 31 dicembre con l'accoglienza, la colazione, la conoscenza e uno spazio di formazione. Il pranzo condiviso col metodo porta e offri alle ore 13 e poi un blitz party diviso per gruppi, organizzando e svolgendo diverse attività di animazione in centri diurni, comunità di accoglienza, case di riposo. Alle 19 il rientro, la condivisione, la nell'animazione, poi il brindisi a mezzanotte e la festa. L'anno scorso c'erano 250 persone, quindi si conta di replicare l'esperienza anche quest'anno. Caritaspadova.it sezione giovani appunto per le iscrizioni, che sono aperte fino al 27 di dicembre. La proposta è, come detto, semplice, anche quella di un Capodanno diffuso, piccoli gruppi di volontari che animeranno diverse realtà del territorio con attenzione alle caratteristiche di ogni realtà, le risorse, le disponibilità, le abilità, le competenze, quindi potrà essere un semplice incontro oppure un'occasione di giochi, di balli, di canti, della tombola, che è insomma una delle attività tradizionali del periodo delle feste. Il campo base è fissato nella palestra del seminario minore di Rubano in via Rossi numero 3. Su caritaspadova.it poi trovate anche sotto la voce Capodanno di condivisione il modulo per partecipare all'edizione 2017, perché già ci lanciamo all'anno nuovo appunto del Capodanno promosso dalla Caritas di Padova. Torniamo a parlare di terremoto, perché la Caritas di Padova, in coordinamento con le Caritas del Nord-Est, è gemellata insieme alle Caritas della Campania, dell'Umbria, della Sardegna con la diocesi di Spoleto Norcia, una realtà che al momento conta circa 5.000 sfollati tra Norcia centro e i paesi e le frazioni limitrofe. Un migliaio di persone hanno dovuto accettare di trasferirsi in altre località, una situazione, come sappiamo, già molto difficile per quanto riguarda il comparto zootecnico e agricolo, con perdita di bestiame e la mancanza dei luoghi di ricovero colpiti appunto dal sisma di fine agosto e poi quello di fine ottobre. E proprio il settore zootecnico e agricolo è uno dei principali volani economici del territorio dell'Italia centrale. Di conseguenza è stata consistente la perdita di lavoro e attività, comunità che rischiano di frammentarsi ulteriormente e anche di sparire. È il tutto accompagnato dalla perdita della normalità quotidiana a partire dalla propria abitazione e da una situazione emotiva di morte interiore per chi si è visto sbriciolare la casa e il futuro. Nei giorni scorsi nella tenso struttura di Norcia si è svolto un coordinamento tra i delegati della Caritas italiana, delle diocesi attive nel gemellaggio, appunto tra cui Padova, l'arcivescovo di Spoleto Norcia e i parroci delle comunità più colpite, per capire le necessità e le possibilità di intervento e sostegno. Tra gli impegni prioritari di questo gemellaggio sono emersi l'ascolto delle persone, la creazione di centri comunitari per evitare lo spopolamento del territorio e l'avvio di progetti a favore delle aziende zootecniche e agricole. In particolare il coordinamento delle Caritas del Triveneto si sta impegnando direttamente nel sostegno delle realtà agricole e zootecniche per garantire il noleggio di una sessantina di camper o roulotte a quanti devono stare vicino all'azienda per governare gli animali. C'è inoltre la disponibilità per provvedere all'acquisto di foraggi e mangimi per il bestiame e studiare la possibilità di sostenere queste aziende anche facendole partecipare a fiere o eventi espositivi per favorire la vendita tempestiva di prodotti che rischiano altrimenti di andare perduti. Si stanno inoltre cercando delle strutture per proteggere l'attrezzatura agricola e per lo stoccaggio di beni e arredi delle case che ormai sono inagibili. Ormai in quelle zone l'inverno è già arrivato, anche il maltempo consistente nelle scorse settimane con forti precipitazioni. Allora è necessario continuare a tenere attive le linee di sostegno, e la Caritas le ha tutte aperte: direttamente allo sportello in via Vescovado 29, tramite versamento su conto corrente postale, bonifico bancario e con la causale sempre terremoto Centro Italia. Tutti i dettagli, i numeri su cui non mi dilungo, i numeri, i codici bancari sono sul sito caritaspadova.it. Sullo stesso sito, ricordo infine, c'è tutto il materiale per l'animazione dell'Avvento, di cui è iniziata la seconda settimana, con molti materiali a disposizione, appunto per i giovani, per i bambini, l'iniziativa della Chiara Stella, le cosiddette pillole digestive per fasce d'età dai 6 ai 10 anni, dagli 11 ai 13 e dai 14 ai 19 anni, approfondimenti culturali, schede materiali, appunto, che sono online sul sito caritaspadova.it. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.